Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia una nuova puntata di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda i mercati oggi invece sono in rialzo rispetto all'apertura debole di ieri, più 1,1%, Parigi più 1,34%, Francoforte più 1,20%, Londra più 0,70%, Dow Jones più 0,3%. In questo momento sul fronte delle valute siamo a 1,3761 nel rapporto euro-dollaro, ma sul fronte del tema che ieri abbiamo seguito lungo tutta la puntata, e mi riferisco al tentativo europeo di porre dei paletti alla speculazione che si realizza soprattutto attraverso questo strumento, i CDS, che tanta parte ha avuto nello scoppio della crisi e tanta parte ha avuto anche nel peggioramento della situazione greca. Dicevo, da questo punto di vista l'elefante ha partorito un topolino, nel senso che non hanno deciso nulla, anzi hanno proprio deciso di non decidere i ministri europei riuniti ieri sera per il vertice europeo, questa mattina per il vertice dell'Eurogruppo. Hanno sugli hedge fund, quindi la possibilità di limitare la speculazione soprattutto di fondi altamente speculativi che non hanno sede in Europa. Su questo, dicevo, si rinvia almeno prossima riunione. Anche sulla Grecia non c'è stata una decisione forte, netta. Insomma, secondo alcuni osservatori l'Europa ha perso un'occasione per dimostrare che si può porre come soggetto unico nei confronti tanto della speculazione che arriva da oltreoceano quanto dei mercati in generale. Ne parleremo nella seconda ora del programma. In apertura parleremo invece la riforma delle tutele nel mercato del lavoro, molte polemiche l'avete vista la settimana scorsa per quello che riguarda l'arbitrato, il cosiddetto possibilità di introdurre l'arbitrato al posto del ricorso al giudice. Abbiamo ospitato la settimana precedente le opinioni anche del governo, oggi ospiteremo quelle dell'opposizione, che in realtà non sono opposte, anzi come sentiremo Pietro Ichino, giuslavorista molto conosciuto, dice in sostanza che la CGIL ha torto perché la norma è così blanda che non cambierà la situazione, e sbaglia la CGIL a dire che in questo modo si vanno a destrutturare i diritti dei lavoratori. Casomai, se c'è una critica da fare a questa riforma, è che è troppo articolata, complicata e quindi verrà poco utilizzata. Poi parleremo della vicenda Unicredit. Oggi il Consiglio di amministrazione ha in sostanza detto che ha preso tempo per un insieme di elementi che poi tratteremo, circa 2 settimane di tempo, e anche per la governance. Il titolo come va? Visto che già ce lo chiedete, guadagna il 2% Unicredit, il miglior titolo è CIR più 3,1, Mondadori più 2,2, Modigliano più 2,1 come appunto Unicredit, Tenaris più 1,70 come Steam Microelectronics, l'1,6 lo guadagna Pirelli e Parmalat, Macchi, Intesa San Paolo e Unipol, 1,5 punti il rialzo di Prismian, l'1,3 è quello di Enel, Mediobanca e anche Finmeccanica, l'1,2 rialzo di Generali, Saipem, Boots, Unicem ed Exor, l'1,1 quello del Banco Popolare e di Fiat, Mediaset più 1%, Ubibanca più 1%, Eni più 0,80%. Ancora il peggior titolo è di tanto, è Bulgari meno 8,9%, Impregilo meno 0,6%. Per quello che riguarda poi le altre notizie del giorno, avremo anche alcune dichiarazioni rese sul tema della finanza. Sapete che a noi interessa molto anche il rapporto della responsabilità sociale. Oggi segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone ha visitato la Confindustria, si è parlato anche appunto di imprese, di responsabilità sociale delle imprese, anche del protocollo sulla legalità, lo ha fatto la presidente Confindustria Marcegaglia. 349-238-6666 per gli sms, rapidamente le altre notizie in breve. Il petrolio è sopra gli $80 al barile, la benzina, per quello che riguarda l'Unione Petrolifera, per voce del suo presidente Pasquale De Vita, ha detto per far scendere il prezzo della benzina a livello europeo andrebbero chiusi 5-6 mila impianti di distribuzione, 5-6 mila pompe di benzina, quei 3-4 centesimi che ci dividono dall'Europa e potrebbero allo sviluppo del self-service, infatti sono proprio dovuti, secondo De Vita, a quei 5-6 mila impianti presenti in più in Italia. Toyota non si arrestano le difficoltà per la casa automobilistica, perché si appresta a tagliare a marzo la produzione della Prius a causa di un calo del 40% delle vendite in America. Lo ha affermato l'agenzia di stampa Reuters. Nel frattempo è uscito il dato sull'immatricolazione di auto a febbraio in Europa, mercato più 3,2%. Fiat va meglio della media di mercato, più 5,1%, tant'è che la quota di Fiat sale a livello europeo al 9,2% del totale. Continuano ad esserci problemi sul fronte immobiliare negli Stati Uniti. I dati che escono in queste settimane sono tutti infatti peggiori rispetto alle stime. L'ultimo, quello di oggi, le nuove case costruite in America hanno toccato un calo del 6% nel mese di febbraio, contro un calo del 3,5% atteso dagli analisti. Volete già sapere la riforma? Allora, la riforma è stata ritirata in agenda al vertice Ecofin per gli hedge fund, è stata ritirata al fine di avere più tempo per ottenere il sostegno più ampio possibile. Insomma, non c'è convergenza in Europa e quindi la riforma slitta, così come il piano greco. C'è un piano coordinato di aiuti europei per la Grecia ed è stato anche discusso, ma per ora non serve. Comunque, per avere via libera, deve essere approvato in via definitiva dai leader europei la prossima settimana. E il ministro europeo ha detto: attenzione, non chiediamo aiuti all'Europa. Parleremo anche della dichiarazione del nostro ministro Tremonti, che ha detto: vabbè, è realistico il rinvio della discussione sugli hedge fund. E poi ha chiesto anche di ripensare alla quota europea nel Fondo Monetario Internazionale. L'inflazione, per quello che riguarda l'inflazione, oggi è arrivata la conferma a febbraio, più 0,1%, mese più 1,2%, e allora su questo abbiamo preparato la nostra prima scheda, e poi parleremo di ristrutturazione delle imprese e appunto di riforma del mercato del lavoro. L'Istat ha fotografato un febbraio senza particolari scossoni sul fronte dei prezzi, con un'inflazione che si è attestata all'1,2%, con un piccolo rallentamento rispetto a gennaio. Nel dettaglio, per quanto riguarda la spesa di tutti i giorni nell'ultimo mese, è leggermente cresciuto il costo di pane e pasta, carne e pesce. Fermo invece il prezzo di latte e formaggi e in calo quello di verdura e soprattutto frutta, scesa in media dello 0,6% rispetto a gennaio. Sul fronte casa, aumenti significativi per la bolletta dell'acqua, salita dell'1,4%, e per quella del gas più 0,4%. Nessuna variazione, invece, per l'elettricità. Quanto ai trasporti, la benzina ha registrato nell'ultimo mese aumenti dello 0,5%, al contrario del gasolio, sceso dello 0,9%. Nessun aumento poi per vestiti e calzature ed elettrodomestici, mentre sono diminuiti i prezzi dei medicinali. Trento e Venezia, segnala l'Istat, sono le città dove i prezzi sono saliti di più rispetto a gennaio. Invariato invece il costo della vita a Milano, Trieste, Ancona, Palermo e Cagliari. Leggero calo, infine, a Reggio Calabria. Questi quindi i dati, con un'inflazione appunto ferma a febbraio, ferma, insomma, leggermente in aumento, più 0,1%, sul mese più 1,2% sull'anno. Comunque stiamo parlando veramente di livelli di inflazione molto bassa. Dicevamo dell'incontro del segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone presso la sede degli industriali in via dell'astronomia a Roma. Su questo è intervenuta la presidente Confindustria Marcia Gaglia, parlando anche delle ristrutturazioni delle imprese, della responsabilità sociale e anche della tenuta del livello occupazionale. Allora, le ristrutturazioni delle imprese vanno fatte, ha affermato la presidente Confindustria Marcegaglia nel discorso introduttivo. Dobbiamo fare di tutto per mantenere la coesione sociale e questo significa anche però accettare che alcuni stabilimenti che non hanno la capacità di stare in piedi devono essere chiusi, significherebbe buttare via soldi pubblici, in riferimento alla Termini Imerese, ma non solo. Sentiamo la Presidente Confindustria. Oggi c'è un tema molto importante che riguarda l'occupazione, la nostra attenzione a questo tema è massimo. Noi ci teniamo però a dire che, poiché proprio vogliamo lavorare per una sostenibilità a medio termine del sistema imprenditoriale italiano, noi dobbiamo far di tutto perché ci sia un mantenimento della coesione sociale, ma questo non significa mantenere in piedi magari stabilimenti che non hanno un senso economico, perché questo alla fine vorrebbe dire buttare via risorse pubbliche, perché vorrebbe dire probabilmente sussidiare imprese o stabilimenti che non hanno la capacità di stare in piedi. Quindi noi pensiamo che le ristrutturazioni vadano portate avanti proprio per una logica di mantenimento di una capacità competitiva a medio termine, ma l'impegno di tutti noi deve essere quello di far sì che chi rischia di perdere posti di lavoro nell'ambito di queste ristrutturazioni abbia una chance vera, una potenzialità vera di reimpiegarsi, di trovare nuove forme di lavoro. Quindi il tema di come noi creeremo i nuovi lavori, come noi cercheremo di aiutare le persone che perdono posti di lavoro magari in settori o in stabilimenti non efficienti, e come invece queste persone potranno reimpiegarsi in nuove imprese o in nuovi settori più promettenti, è un tema fondamentale. Noi pensiamo che questo vada fatto attraverso una formazione vera, profonda, che aiuti le persone a reimpiegarsi, attraverso una riforma degli ammortizzatori sociali che aiuti le persone in questo senso, e vada fatto anche attraverso una grande scommessa che il Paese e gli imprenditori devono fare sull'innovazione, sulla ricerca, che è l'unico modo per mantenere competitive le nostre imprese. Ancora per quello che riguarda la legalità, la Presidente Confindustria ha chiarito che tra pochi giorni ci sarà un incontro con il Ministro Maroni in cui si avvierà appunto un protocollo di legalità. Il Ministro ha già detto che vuole seguire l'esempio di quanto fatto inizialmente dalla Confindustria Sicilia e poi anche dalle altre Confindustrie, dalla Confindustria a livello nazionale, l'espulsione di chi paga il pizzo per esempio. E poi il tema della responsabilità sociale, visto che si parlava di fronte appunto al segretario di Stato Vaticano Bertone, diciamo, ha detto la Presidente Confindustria, è nel nostro DNA. Crediamo che ci sia nel sistema delle imprese italiane, soprattutto delle piccole e medie imprese italiane radicate nel territorio, ci sia nel DNA di queste imprese la responsabilità sociale d'impresa. Se noi vediamo come alla fine tutto sommato le imprese italiane hanno tenuto in più di più sull'occupazione, come tutto sommato nel paese, nonostante una crisi devastante che ha colpito l'Italia fortemente, la coesione sociale si sia mantenuta, ecco, io credo che questo dimostri che tutto sommato c'è nel DNA delle imprese un tema di responsabilità sociale d'impresa, di attenzione fortissima rispetto ai territori, rispetto ai propri collaboratori. Però dobbiamo lavorare di più, dobbiamo fare di più, dobbiamo in un certo senso far sì che anche gli imprenditori, che forse la professano già la responsabilità sociale d'impresa senza magari esserne del tutto consapevoli, invece comprendano il significato profondo di questo tema. E allora il commento, diciamo l'intervento, chiaramente una parte del segretario di Stato Vaticano Bertone, che ha detto insomma l'imprenditore responsabile va assistito dalle istituzioni anche con la riforma degli ammortizzatori sociali. Fare impresa è una missione potenzialmente elevatissima, ma essa è uno strumento per il benessere dell'uomo, il quale non è solo materia, e perciò esige grandi attenzioni anche ai suoi bisogni spirituali. Quando l'imprenditore si occuperà anche di questi, avrà acquisito un vero vantaggio competitivo. Per assicurare lo sviluppo dell'impresa si deve credere nella vita e sostenerla con tutti i mezzi, aiutando le famiglie a formarsi, sostenendo la nascita e la crescita dei figli, assicurando così uno sviluppo vero e sostenibile per il sistema industriale. Per favorire la creazione di ricchezza dell'impresa, lo sviluppo economico deve essere distribuito ed esteso a tutti, solo così potrà essere mantenuto. Inoltre, l'economia e la tecnica non possono avere autonomia morale, essendo mezzi, essi devono essere utilizzati per il bene comune, per il bene di ogni persona. Infine, la responsabilità dell'imprenditore e il comportamento cosiddetto etico sono personali, perché è la persona che dà senso alle sue azioni e alle sue scelte. E restiamo in tema di ammortizzatori sociali, non tanto, non solo per la riforma che comunque dovrebbe essere avviata dal governo dopo le elezioni, così abbiamo capito dalle parole del ministro Sacconi, ma perché si è tornati oggi a parlare della riforma del disegno di legge approvato il 4 marzo che modifica in parte la normativa sul lavoro. La riforma, lo ricordo, prevede che per risolvere le controversie di lavoro si possano scegliere due strade, una giudiziaria, come già accade adesso, e l'altra arbitrale. Già al momento dell'assunzione potrebbe essere stabilito nel contratto l'eventuale ricorso all'arbitrato, poi nella riforma c'è anche nel caso di ricorso al giudice, in caso di licenziamento si dovrà tenere conto delle tipizzazioni di giusta causa, quindi che cosa significa giusta causa secondo i contratti di categoria e giustificato motivo previsti appunto nei vari contratti collettivi e in quelli individuali. Cade poi la obbligatorietà del tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro, che attualmente appunto precede l'eventuale ricorso al giudice. Oggi su questo il ministro Maurizio Sacconi è tornato a escludere ogni possibile modifica del disegno di legge sul lavoro che prevede ricorso all'arbitrato. Nessuna modifica mai, lo ha detto al microfono la nostra Laura Viggiano a margine di una conferenza stampa di carattere elettorale appunto a Napoli, in Campania. Per quanto riguarda la regolazione dell'arbitrato, io faccio appello alla piattaforma riformista che si è organizzata anche intorno a questa novità legislativa a suo tempo disegnata da Marco Biagi. C'è una piattaforma riformista che garantisce un'adeguata gestione condivisa fra le parti dello strumento dell'arbitrato. La piattaforma riformista è fatta da tutte le organizzazioni, tranne la CGIL, che hanno firmato il sostegno allo strumento dell'arbitrato. Lei chiude ogni possibilità di eventuali modifiche anche successive ad un possibile vado della legge? Assolutamente, nessuna mai modifica. E poi le risorse per gli ammortizzatori sociali. Su questo già da Chernobyl in fine settimana era intervenuto il ministro dell'economia Tremonti dicendo abbiamo una cassa piena di soldi per la cassa integrazione degli ammortizzatori sociali, non c'è nessun problema da questo punto di vista. Vi è tornato oggi il ministro Sacconi che ha detto nessuno soffrirà per una eventuale carenza, ne soffrirà di un'eventuale carenza di risorse. Stiamo verificando quante risorse sono state effettivamente spese, che non significa soltanto di considerare quante somme sono state autorizzate, perché per fortuna normalmente il cosiddetto tiraggio, l'effettivo impiego di soldi è inferiore alle somme autorizzate. Per timore le parti concordano un certo programma di cassa integrazione, poi però magari viene realizzato in misura inferiore, e questo sta accadendo in tutta Italia. Questo richiede una verifica dei conti, questo non è una precondizione per dare altri soldi, però stiamo facendo anche questo tipo di accertamento per vedere quante risorse effettivamente sono state spese e quante ragionevolmente ancora sono necessarie. Quello che conta è una cosa: nessuno soffrirà per carenza di risorse. Così il ministro Sacconi, ripeto, a noi ha lasciato, cioè incuriosito intellettualmente parlando, un articolo poi anche riproposto del giuslavorista Pietro Ichino, insomma molto conosciuto appunto, senatore del PD, che ha detto una cosa un po' diversa rispetto alla polemica di queste settimane, il governo che difendeva l'iniziativa, la CGIL sostanzialmente che diceva si va a smantellare il diritto della tutela dei lavoratori previsto dall'articolo 18. che se abbiamo ben capito, appunto, Pietrichino dice no, hanno ha torto la CGIL perché in realtà la riforma del governo è talmente blanda che non toccherà niente, non verrà utilizzata. Comunque, sentiamo dalle sue parole. Ringrazio infatti per averci raggiunto in collegamento Pietro Ichino, senatore del PD, appunto docente di diritto del lavoro all'Università Statale di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a tutti. Allora, mi faccia capire una cosa. Se ho ben letto quanto lei ha scritto nei giorni scorsi, lei sostiene che ha torto sia la CGIL, o meglio, che la CGIL ha torto perché non è vero che questa norma va a toccare poi l'impianto attuale, spingendo verso la parte arbitrale e non quella giudiziaria. Cioè, la contestazione che lei fa è che è una norma quasi troppo blanda, non che vada a destrutturare o a rivoluzionare le garanzie dell'articolo 18. Ho capito bene? Io dico questo. La norma è sbagliata in linea teorica, perché l'arbitrato posto nel contratto individuale è una cosa concettualmente sbagliata nel diritto del lavoro, ma la norma è così pasticciata, scritta in modo così confuso e illeggibile anche per gli esperti, per gli addetti ai lavori, per i giuslavoristi, i consulenti del lavoro, che sono pronto a scommettere non 10.000 ma anche 100.000 euro che di qui a 3 anni ci ritroveremo a constatare che la norma non ha prodotto alcun risultato pratico. Perché dico questo? Perché il datore di lavoro, innanzitutto va detto che la norma demanda alla contrattazione collettiva di stabilire i paletti, le regole, e è prevedibile, e del resto già l'intesa fra Confindustria, CISL e UIL preannuncia questo, che dove ci saranno i contratti collettivi, si applicheranno i contratti collettivi, questi regoleranno la materia escludendo dall'arbitrato la materia dei licenziamenti. Ma anche nelle zone dove i contratti collettivi non arriveranno, c'è qualche interstizio in cui non si applica il contratto collettivo, il datore di lavoro furbo, disonesto, spregiudicato che vuole eludere il diritto del lavoro non utilizzerà questa forma complicata, rischiosa e costosa per eludere il diritto del lavoro, ma lo farà nella forma più semplice in cui oggi questo avviene, che è far aprire la partita IVA all'autista, al magazziniere, alla segretaria d'ufficio, cosa scorretta ma molto più facile, molto meno costosa che non attivare questa clausola arbitrale. Quello che io rimprovero a questa legge è di essere sabbia nell'ingranaggio. Non è una legge che introduce 50 nuovi articoli in una materia in cui abbiamo già una enorme ipertrofia della legislazione. Il diritto del lavoro occupa 2700 pagine di un codice illeggibile, difficilissimo da conoscere, non è con aggiungendo altri 50 articoli come questi che facilita la vita a imprenditori e lavoratori. Ecco, questa è la mia critica. Leggi come questa sono destinate a restare sulla carta, nel bene e nel male. D'altra parte io invito la CGIL a non gridare al lupo per ogni norma che viene emanata dalla maggioranza di centrodestra che dispiace, che non convince. Anche a me non convince affatto e ritengo sbagliata questa norma, ma gridare ogni volta alla destrutturazione del diritto del lavoro, smantellamento delle tutele, liberalizzazione selvaggia, è sbagliato, è un errore che è già stato fatto con la legge Biagi e che finisce poi con l'essere pesantemente controproducente, perché quando poi la gente si accorge che invece non c'è nessuna destrutturazione, la norma è di fatto non produce gli effetti denunciati, Poi finisce che questi allarmi cadono, vengono lasciati cadere nel vuoto, e poi c'è il rischio che quando il lupo arriva davvero la gente non ci crede più. Quindi io starei più attento nel lanciare questi allarmi catastrofici che non corrispondono a un rischio reale. Chiarissimo, grazie a Pietro Ichino, docente di diritto del lavoro all'Università Statale di Milano e senatore del PD. Grazie a voi, buonasera. Quindi attenzione, secondo quanto abbiamo capito da Pietro Ichino, al gridare al lupo, perché se poi si parla sempre di distruzione del diritto del lavoratore, distruzione delle tutele, poi questo non avviene, uno, come appunto nella favola, poi non crede più qualora dovesse realmente avvenire. Comunque adesso le informazioni meteo, la pubblicità, poi la borsa, la vicenda Unicredit e la vicenda anche da un lato greca, dall'altro dei fondi speculativi. C'è la non decisione sostanzialmente dei paesi europei a Bruxelles. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa e poi Unicredit, poi appunto il vertice Ecofin, da un lato Grecia, dall'altro i fondi speculativi. 349-238-6666 per i vostri sms, questo infatti offre oggi la giornata economico-finanziaria italiana e non solo. Allora, la borsa come sempre con i colleghi di Radio Colli, Sole 24 Ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, giornata oggi tutto sommato tranquilla, ieri un meno 0,7, meno 0,8, oggi un più 1,1, parlo di Milano, poi ancora per quello che riguarda Parigi più 1,2, Francoforte più 1,1, Londra più 0,6%, l'America guadagna lo 0,20% sul Dow Jones in questo momento. I titoli però si sono mossi e devo dire che Bulgari perde il 10% e CIR invece guadagna il 3,1%. Partiamo da Bulgari, per favore. Sì, Bulgari oggi ha risentito della delusione per i conti di bilancio che sono stati diffusi ieri a mercato chiuso. In particolare la società ha visto il 2009 che si è chiuso con un rosso di bilancio di 47,1 milioni rispetto all'utile dell'anno prima, cosa che ha fatto effetto al mercato. Peraltro anche il CDA che verrà proposto all'assemblea è dimezzato rispetto a quello del 2008 e sarà di soli 0,05 euro. Il mercato quindi ha reagito male in quanto aveva messo in conto sì conti diciamo deludenti, ma non come quelli che sono stati effettivamente comunicati. Per quanto riguarda CIR invece si è impennata soprattutto sul finale, non ci sono motivazioni particolari, ma molte cose diciamo bollono in pentola nella società. In primis il gruppo CIR sta preparando la quotazione di COS, una società in cui ha la maggior partecipazione e attiva nel settore dei servizi sanitari. Sempre per quello che riguarda i titoli principali, Mondadori bene più 2,7%, Unicredit più 2%, di Unicredit parleremo adesso, Mediolanum più 2%. Andava bene, anche se un po' ritracciato alla fine, Italcementi, la cito per un altro motivo, alla fine ha fatto un più 0,1% perché oggi Italcementi ha lanciato un'obbligazione. Esatto, ha lanciato un'obbligazione decennale per 750 milioni di euro, l'operazione è andata molto bene sul mercato, ha avuto un buon riscontro, tanto che la domanda ha superato la soglia dei 4 miliardi. Ancora andiamo avanti con i vari settori, l'auto, abbiamo dato in apertura il dato europeo, più 3,5% di immatricolazione a febbraio, buon andamento di Fiat, più 5,5%, con una quota che sale al 9,2%. Le reazioni sul titolo? Oggi è andato bene tutto il settore auto europeo, che è stato il migliore in Europa, più 1,7 il sottoindice europeo appunto. Fiat è andata bene, tra l'altro il progresso è andato aumentando nel corso della giornata, ha chiuso più 1% a 9,43 euro e comunque sempre a Piazza Affari diciamo si sono risvegliati un po' tutti i titoli legati al settore auto. È andata bene anche Brembo, che peraltro ieri ha dato i conti di bilancio, una società appunto strettamente legata all'auto, nonché la stessa Pirelli, più 1,7%, tra l'altro è in corso il roadshow della società, in questi giorni i manager del gruppo sono in giro in Europa, nei prossimi giorni andranno negli Stati Uniti e già si stanno vedendo i primi riscontri. Poi soprattutto anche il mercato continua a scommettere su quella che sarà l'operazione che dovrebbe essere realizzata quest'anno di spin-off delle attività immobiliari. Ancora per quello che riguarda le banche, diciamo sotto osservazione Unicredito, bene le altre mi sembra in generale rispetto ad altre sedute. Noto che Intesa ha guadagnato l'1,4, Unipol l'1,8, ancora il Banco Popolare 1,5%, Intesa diciamo più 1,4 appunto e UbiBanca più 1%, Mediobanca più 1%. Chiudiamo con il Monte dei Paschi più 0,35%. Tra gli altri titoli sul petrolio, abbiamo visto un petrolio in leggero rafforzamento, questo va a beneficio di Saipem più 1,3%, ma anche di Eni, che alla fine chiude positiva dello 0,75%. Vorrei commentare adesso altri titoli. Beh, prima di chiudere con la parte dell'S&P MIB, però anche in pregilo, Eleonora. Pregilo insieme appunto a Bulgari è stata sono stati gli unici due titoli che hanno chiuso la seduta in ribasso. In Pregilo è andata meglio di Bulgari, meno 0,59%, fa paura al mercato il fatto che la società di costruzioni possa essere interessata a rilevare la quota dell'Alamaro della famiglia Toti in City Life, il progetto immobiliare qua a Milano. Il mercato ha paura dell'acquisizione, per ora tuttavia non si è parlato né di cifre né di altro. Solamente ieri il presidente di Impregilo e anche peraltro della Popolare di Milano ha ribadito che Impregilo è interessata e che è in corso una due diligence proprio per valutare il valore di City Life. Ancora, tra i minori, vabbè, di Bulgari è il peggiore in assoluto, abbiamo detto, però c'erano due debuttanti oggi, Poligrafici Printing e PMS, che è una società di comunicazione, ne abbiamo parlato anche con il presidente Patrizio Maria Surace. Allora, Poligrafici più 12,8, PMS più 12,5, e poi se aggiungiamo un commento, l'onore anche a Seat Pagine Gialle, che sull'ordinario ha fatto più 8,4, sul risparmio più 8,9. Esatto, allora oggi c'è stata una grande voglia di matricole, potremmo dire, infatti tutte e due le società sono state ben acquistate, ma c'era un po' il sentore anche nei giorni scorsi, c'era stata una forte richiesta appunto delle azioni. Per quanto riguarda invece Seat Pagine Gialle, i titoli si sono impennati dopo la diffusione dei conti del 2009 e soprattutto dopo appunto che si è tenuta la conference call dell'amministratore delegato Cappellini con la comunità finanziaria. I conti si sono chiusi in perdita, d'altra parte una perdita che è nettamente migliorata rispetto a quella dell'anno precedente, infatti la perdita ammonta a 37,7 milioni, quella del 2009 contro il rosso di 179 milioni dell'anno precedente, ma soprattutto il mercato ha apprezzato il fatto che c'è un netto miglioramento di quelle che sono le attività italiane, soprattutto dell'online, per le quali è prevista una crescita del 30% nei prossimi mesi ed è proprio il business sul quale sta puntando l'azienda attraverso una strategia di sviluppo. Ancora sì, quello appunto è il motivo sui titoli. Tra l'altro una cosa, giustamente fanno notare gli ascoltatori, Safilo Group, anche Safilo ha fatto più 7,90%, qui però insomma ci sono altre dinamiche, Fidia più 7,2%, tra i peggiori, Brembo abbiamo detto, Arena più 6%, sì 5,98%, tra i peggiori oltre Bulgari cito anche Landi Renzo, meno 3,3%, Cadit, meno 3,3%, e Sopaf, meno 3%. Insomma, poca roba, mentre l'America in questo momento continua a essere ferma, sono 0,1%, ha leggermente ritracciato. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, le informazioni sul traffico e poi la vicenda Unicredit. Allora, vicenda Unicredit, che cosa è successo? Allora, vediamo un attimo di capire. Il titolo oggi è ben guadagnato, lo dicevamo, più 2,1%, è il miglior titolo tra i titoli bancari, a 2,03 euro. In realtà, oggi si riuniva il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Strategico di Unicredit, e doveva decidere sul progetto presentato dal numero uno della banca, Alessandro Profumo, di riorganizzazione del gruppo. Qui facciamo capirci, come dicono a Roma, nessuno sta aprendo un approfondimento su come si vuole organizzare Unicredit. Qui i giochi sono molto diversi, sono proprio i rapporti di forza interni, inutile nascondersi dietro un dito. Banca unica, così si chiama il piano di riorganizzazione del gruppo previsto da Alessandro Profumo. Siccome stiamo parlando del primo gruppo bancario italiano insieme a Intesa, sono lì alla pari, 39 miliardi di euro di capitalizzazione, 22 paesi in cui opera, 174.000 dipendenti e 40 milioni di clienti, che nel 2005, lo ricordate, ha assunto il controllo della tedesca Hypo Vereins Bank e nel 2007 di Capitalia, ha un peso fortissimo nel cosiddetto galassia finanziaria di questo paese, perché oltre che essere un tale gruppo bancario ha anche l'8,7% di Mediobanca e il 3% delle Generali, e su questo c'è una partita aperta. Che cosa è successo ieri sera? E poi arriviamo alla notizia di oggi. Ieri sera, in serata, verso le 20, è uscita la notizia che alcuni membri del Consiglio di Amministrazione avrebbero bloccato o non avrebbero voluto far passare il progetto di banca unica, che prevede che Unicredit venga divisa in tre reti, tre strutture. Quindi tre capirette, con Gabriele Piccini, famiglie, piccole e medie imprese, Pier Giorgio Peluso, corporate, quindi le grandi imprese, e Dario Prunotto, il private banking. E a questi tre responsabili di business si aggiungeranno sette presidenti territoriali che coordineranno le diverse aree geografiche. Alessandro Graziani, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora Alessandro, per non far proprio le verginelle, come dicevo, qui il problema non è tecnico, altrimenti probabilmente non ci siamo neanche occupati. Voglio dire, una banca ha tutti i diritti di discutere al suo interno come organizzarsi meglio, e sono assolutamente fatti suoi, poi sarà il mercato a dare un risultato. Tutta l'attenzione di oggi è appunto il fatto che si sia trovato un accordo su banca, cioè su banca unica, si è trovato l'accordo di fare slittare il Consiglio di Amministrazione al 13 aprile. Sotto cosa c'era e cosa c'è? Beh, sotto cova, sotto, cioè, cenere che può portare fuoco per il momento a livello politico, bancario, organizzativo, perché la fusione, come ricordavi tu, delle banche controllate, che sono banche storiche in Italia, Cari Verona, Cassa di Torino, Banca di Roma, Banco di Sicilia, Rolo Banca, sono banche storiche, scompaiono e entrano dentro il gruppo. Questo comporta oggettivamente, da un punto di vista politico, la scomparsa di una serie di consigli di amministrazione, di direzioni generali a livello locale, con una serie di mal di pancia da parte delle fondazioni azioniste di Unicredito, che quindi si lamentano della perdita di peso a livello territoriale, e che ha come conseguenza ultima, e questo è il vero problema che in questo momento tiene banco, è la ridefinizione delle deleghe operative nella gestione della banca con il nuovo assetto organizzativo, perché ovviamente una entità unica in Italia di questa dimensione, secondo gli azionisti, non può essere governata solo da sette presidenti territoriali, come ricordavi tu, ma serve anche, secondo le fondazioni ed altri azionisti, un direttore generale unico che sia un referente per gli azionisti, anche ai fini del controllo dei rischi che sussistono poi sul territorio. E questo ha delle ripercussioni a livello di governance, perché sembra che l'amministratore delegato della holding, Alessandro Profumo, non gradisca di essere in un certo senso ridimensionato con la nomina di un direttore generale. Quindi c'è una prospettiva di Alessandro Profumo che vede in questa proposta un ridimensionamento. Dall'altra parte ci sono i mal di pancia di chi ancora ha conservato nome e consiglio, CRT, quindi Cassa di Risparmio Torino, Cari Verona, Banco di Sicilia, Loro Banca, solo per citare i principali. Devo dire che anche i tedeschi di Hypo Vereinsbank e i privati rappresentati da Pesenti e Maramotti avevano manifestato qualche così obiezione in questi giorni. Però qui siamo alla parte, diciamo, con Profumo che ha in mente un'idea di banca in cui si vanno a accorpare anche ciò che resta di chi ha mantenuto il nome, si divide per area geografica, con i 7 presidenti, 3 responsabili di business, gli altri dicono no, ci vuole anche un direttore generale, non, e il gioco si fa su questo. Ti chiedo, se fosse solo questo, però staremo ancora ragionando, per quanto, insomma, con rapporti di forza importanti, della governance interna di Unicredit, del loro rapporto, diciamo, di gestione. Perché molti sullo sfondo vedono anche il tema dell'operazione Mediobanca Generali, viste le quote che ha Unicredit? Perché un eventuale ridimensionamento del ruolo di Profumo, amministratore delegato di Unicredit, in questa fase, ovviamente, essendo Unicredit azionista di rilievo di Mediobanca e delle Generali alla vigilia delle nomine, avrebbe come conseguenza diretta il fatto che il peso di Unicredit dentro questa procedura di nomine sarebbe ridimensionato, comunque più collegiale e non affidato semplicemente a Profumo in quanto amministratore delegato forte. Un suo eventuale ridimensionamento lo indebolirebbe e quindi la trattativa anche su Mediobanca e Generali dovrebbe essere più condivisa anche dagli azionisti di Unicredit, che è un gruppo eterogeneo e non identificabile in una sola persona, come invece finora era Profumo, che certo, decideva autonomamente. Non a caso chiamato in maniera assolutamente non irriverente Alessandro Magno, no, su questo, cioè, anche per la sua espansione nei mercati esteri. Però insomma è chiaro, lo diciamo con la massima neutralità, inutile scrivere qui, proprio non si parla di politica, non si parteggia per le banche, ci mancherebbe. Però con la massima neutralità è chiaro che ridefinire anche i poteri, il peso di Alessandro Profumo, del numero uno, significa poi anche ridefinire quello che sarà l'atteggiamento di Unicredit nella partita Mediobanca Generali, che è una partita tutta da scrivere, Alessandro, ma che si scriverà a breve, se non ricordo male, come tempi, no? Perché insomma, entro 20 giorni al massimo, certo, tutta la situazione dovrà essere ridefinita. Per cui ecco perché si intersecano motivi interni e motivi esterni. Grazie anche per la chiarezza, Alessandro Graziani del Sole 24 Ore. Adesso c'è il nostro GR e poi una cosa vi do in diretta, però Alessandro, se ancora ci sei, comunque l'esame del bilancio 2009 di Unicredit da parte del CDA si è concluso adesso. L'amministratore delegato Alessandro Profumo ha appena lasciato la sede della banca. Prosegue la riunione del consiglio, i consiglieri stanno trattando il punto all'ordine del giorno che riguarda le remunerazioni. Hanno lasciato la sede della banca in piazza Cordusio anche Manfred Bischoff e Salvatore Ligresti. Il GR, poi parliamo di vertice Ecofin, fondi speculativi, salvataggio della Grecia. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, in cui, come annunciato, ci occuperemo di quanto ha deciso o deciso di non decidere Bruxelles oggi. Il tema, lo abbiamo affrontato a lungo ieri, era anche, oltre che le misure a sostegno della Grecia, era anche le misure per impedire la speculazione forsennata di hedge fund, soprattutto quando non residenti, diciamo, in Europa, e trovare un modo per limitare questa speculazione che assume volumi ingestibili a livello mondiale, pari all'intero PIL mondiale, dei credit default swaps. Ieri abbiamo spiegato cosa sono poli, insomma, delle assicurazioni sul rischio paese, nate con lo scopo appunto di assicurare il rischio che si prende un soggetto quando compra del debito di uno Stato, in questo caso parliamo di CDS sugli Stati, ma che ormai sono diventati strumenti speculativi fine a se stessi. E lo si è visto nel caso della Grecia, quando la finanza mondiale, diciamo così, tentò di scommettere sul crollo della Grecia e sull'espulsione della Grecia dall'euro, con conseguente pressione sull'euro nei confronti del dollaro, Insomma, una situazione che gli stati europei definiscono spesso ingestibile e vorrebbero, la politica europea, Sarkozy e la Merkel in primo luogo, vorrebbero regolamentare. Si può dire forse che l'elefante ha partorito un topolino, perché per quello che riguarda gli hedge fund la riforma è stata addirittura ritirata dall'agenda del vertice Ecofin per avere più tempo per ottenere un sostegno più ampio possibile. E qui c'è il ruolo della Gran Bretagna che continua a frenare, nonostante un'apertura iniziale la scorsa settimana di Gordon Brown, continua a frenare, teme che sulla City, una riforma che vada a vincolare la presenza e l'operatività dei fondi speculativi, danneggi poi la City, che vive anche e soprattutto di questo. Le autorizzazioni, il nodo resta soprattutto sulle autorizzazioni dei fondi speculativi extraeuropei, che siano private equity o hedge fund, che si vorrebbe creare un'autorizzazione per operare in Europa. La Gran Bretagna teme che in questo modo di fatto venga scoraggiata la loro presenza in Europa. E secondo Bruxelles, ma anche secondo Parigi, questi fondi, che sono quasi tutti basati in America, dovrebbero avere un'autorizzazione per ogni paese europeo in cui operano. Secondo Londra, che in questo ricalca anche quella che è la posizione americana di Wall Street, o di Washington per meglio dire, si creerebbe una discriminazione verso i fondi extraeuropei. Insomma, quando si va a toccare la finanza speculativa, gli interessi che si toccano sono fortissimi. Il ministro Tremonti ha definito realistico il rinvio, appunto perché l'accordo non c'era. Sentiamo Tremonti proprio sugli hedge fund. Abbiamo avuto ieri una lunga conversazione di lavoro con il commissario Barnier. Il commissario Barnier è fortemente impegnato su tutti questi temi, dagli hedge fund ai CDS, dal rapporto con gli Stati Uniti, l'architettura complessiva della regolamentazione, e non solo regolamentazione, finanziaria europea. E siamo d'accordo assolutamente su tutto. È evidente che non è semplice mettere insieme posizioni che sono state radicalmente diverse, che ora convergono, si avvicinano. Anni fa questa discussione con il Regno Unito sarebbe stata piuttosto difficile, adesso non è facile, ma è certamente meno difficile di una volta. E credo che sia stato, dal punto di vista politico, realistico rinviare la discussione. La scelta della Spagna è stata di non ritirarla, non metterla neanche, con l'obiettivo di discuterne nelle prossime riunioni. La mia impressione è che la macchina si è messa in movimento, che poi sia a marzo o a giugno, che sia con uno strumento o con l'altro, ma diciamo la filosofia politica complessiva, la cultura è radicalmente cambiata. Così il ministro Tremonti, appunto, nel ricordare comunque che l'atteggiamento è cambiato, nessuno ha voglia di fare sconti a questi fondi, però realistico fare una proroga, perché non c'è di fatto l'accordo, è inutile girarsi attorno. Poi c'era il fronte greco, anch'esso, anzi teoricamente il primo oggetto di discussione. Allora, l'Unione Europea ha detto che il piano coordinato di aiuti per la Grecia è stato discusso dai ministri europei, che ne hanno approvato le modalità, ma per ora non serve e comunque deve essere approvato in via definitiva dai leader dell'Unione Europea la prossima settimana. Lo ha spiegato lo stesso commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn e anche il ministro spagnolo all'economia Elena Salgado. Hanno detto: noi abbiamo approvato le modalità tecniche di aiuto, ma non è questo il caso. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa proprio del commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn. We discussed Greece today, the Ecofin. Oggi, nel corso della riunione, abbiamo discusso della Grecia. L'Ecofin è sulla stessa linea di quanto affermato dalla Commissione circa la situazione dei conti pubblici greci. Grazie ad un pacchetto di misure coraggiose e ambiziose per raggiungere il risanamento dei conti, la Grecia è ora sulla strada giusta per centrare l'obiettivo di un taglio del 4% del deficit quest'anno. Continueremo a monitorare da vicino gli sviluppi della situazione greca e il Paese presenterà il prossimo rapporto aggiornato a metà maggio. Questo significa che al più tardi a maggio l'Ecofin tornerà sulla questione greca. Ieri l'Eurogruppo ha chiarito le modalità tecniche di aiuto coordinato alla Grecia, se ce ne fosse bisogno. Ma non è questo il caso adesso. È stato confermato che gli stati dell'area euro sono pronti ad adottare azioni coordinate e determinate per garantire la stabilità della zona euro, se fosse necessario. E ancora, sempre sul caso greco, il ministro all'economia Giulio Tremonti ha detto occorre conoscere bene tutte le opzioni, ma prima di Tremonti vi farei ascoltare quanto ha detto il ministro dell'economia greco Gheorghe Papakonstantinou, scusate la pronuncia non è facilissima, perché ha detto insomma la Grecia non ha chiesto alcun aiuto finanziario all'Europa, accoglie con favore lo sforzo dell'Ecofin perché ha stabilito le modalità di un eventuale salvataggio. Sentiamo il ministro dell'economia greco. The Greek government has undertaken a number of important initiatives. Il governo greco ha preso una serie di importanti iniziative con l'obiettivo di consolidare i conti pubblici e garantire che gli obiettivi definiti nel programma di stabilità e crescita siano raggiunti. Abbiamo annunciato e approvato con urgenza ulteriori misure pari al 2% del PIL. Sono state decisioni difficili ma necessarie per centrare l'obiettivo di ridurre del 4% il deficit quest'anno. Siamo colpiti piacevolmente dal fatto che i nostri sforzi siano stati riconosciuti ieri dall'Eurogruppo e oggi dall'Ecofin. Siamo sulla strada giusta. Accogliamo positivamente la decisione degli stati dell'area euro che si sono detti pronti ad adottare azioni coordinate e necessarie per garantire la stabilità dell'intera zona. Ieri l'Eurogruppo ha discusso le modalità tecniche circa gli eventuali aiuti, se fossero necessari. Voglio però sottolineare di nuovo che la Grecia non ha chiesto alcun aiuto finanziario ai partner dell'Eurozona, ma abbiamo chiesto loro sostegno politico per poter continuare ad avere accesso al mercato. In order to be able to continue to have access to markets. Così il ministro alle finanze e all'economia greco. Intanto saluto per averci raggiunto in collegamento l'economista e nonché editorialista anche del Corriere della Sera Alberto Quadro Curzio, che insegna economia politica all'Università Cattolica di Milano ed è preside della Facoltà di Scienze Politiche. Buonasera professore. Buonasera. Un attimo di pazienza, ancora un minuto per le informazioni sul traffico, poi sentiamo anche il ministro Tremonti sulla Grecia, sul piano greco, e poi vorrei un suo commento, visto che oggi lei ne ha scritto proprio sul Corriere della Sera in prima pagina, dice: terzo atto della crisi greca, l'Europa tenta, fa un tentativo per entrare in scena, mi sembra che però siamo ancora al proscenio qua, professore. Però un attimo di pazienza, il traffico 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, ascoltiamo anche il ministro Tremonti sulla Grecia, quindi che rinvio alla prossima fase. È un prossimo incontro per valutare tutte le opzioni per scegliere poi tra quella finale. La decisione è comunque rinviata al prossimo Consiglio dei Capi di Stato e Governo. Dal precedente Consiglio siamo partiti, il prossimo Consiglio è la settimana prossima. Nel frattempo è stato fatto un importante lavoro tecnico dai tecnici e un lavoro diciamo tecnico-politico. Ieri sera abbiamo affinato le varie ipotesi, le abbiamo messe in fila e abbiamo visto i pro e i contro di tutti e più o meno chi preferisce l'una o l'altra o quale combinazione, ma comunque lo spirito era: noi facciamo un lavoro tecno-politico ma non abbiamo come dire il mandato a chiudere opzioni che saranno chiuse nel Consiglio dei Capi di Stato e Governo. Noi vogliamo conoscere bene tutte le opzioni, vedere l'opzione finale e su quella base decideremo, ma come sempre la posizione dell'Italia è la più europea e la più coordinata possibile. Allora, poi ascolteremo anche il ministro Tremonti proporre di ripensare la presenza europea nel Fondo Monetario Internazionale. Dice insomma, ma perché in Europa, se abbiamo un problema comune la Grecia, siamo divisi poi all'interno del Fondo Monetario, perché alcune delle risorse che diamo al Fondo Monetario non possono restare in Europa. Però, professor Quadrio Curzio, lei scriveva oggi su Corriere della Sera, insomma, qui potremmo essere al terzo atto, dopo un primo atto in cui, quando scoppiò la crisi greca, si pensò di lasciare la Grecia al suo destino, magari con un ingresso con un aiuto del Fondo Monetario. Poi ci fu un secondo atto quando la Grecia presentò un rigoroso piano di rientro, un piano di risanamento delle finanze, di lacrime e sangue, va detto, e lì si ipotizzò che la Francia e la Germania potessero aiutare direttamente la Grecia. Poi nulla è stato fatto, con molte polemiche. La Grecia, in maniera molto orgogliosa, ha detto: non abbiamo bisogno dei soldi dei tedeschi. Addirittura si citarono polemiche risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Lei dice: adesso potremmo essere al terzo atto, sì. Cioè un sostegno europeo alla Grecia che potrebbe svilupparsi su prestiti bilaterali, oppure un prestito, cioè prestito da Stato a Stato, oppure prestiti da Europa a Grecia. Mi sembra che il terzo atto, insomma, siamo ancora all'interludio, se mai arriverà il terzo atto, no? Ma certamente ci si poteva aspettare di più da questo Ecofin e dal precedente Eurogruppo. E tuttavia mi pare che lo stesso ministro greco delle finanze che abbiamo sentito poco fa ha dichiarato che per ora la Grecia non ha bisogno di aiuti, ma ha bisogno di un sostegno politico al fine di trovare quella credibilità sul mercato per collocare i propri titoli di Stato. Bisogna dunque capire che cosa si intende per sostegno politico. E a mio avviso, almeno io così lo interpreto, sostegno politico sta ad indicare che comunque l'Europa, attraverso Ecofin, adesso, senza dirlo, ma è anche pronta ad intervenire laddove fosse necessario. In un certo senso non è stato deciso granché, ma il sentimento di Ecofin mi pare cambiato. E questo sentimento adesso si estrinseca in una, come dire, disponibilità ad un intervento diretto o con dei prestiti bilaterali o con delle garanzie estese però a tutti i paesi di Eurolandia, rispetto a quello che correva poco più di un mese fa, quando tutto sommato sembrava che solo uno o al massimo due paesi fossero disposti a questo, e poi si è visto che questa linea, questa traccia non era una traccia percorribile, anche perché la Grecia stessa, come lei ha detto, non gradiva essere aiutata o sostenuta da un solo paese. Ecco, professore, a nessuno sfugge però che al di là del caso greco, che vale appunto il 3% del PIL europeo, sì, insomma, la regione Lombardia forse qualcosa di meno, sì, questo era un test, un numero zero, una prova tecnica per vedere come si sarebbe mossa l'Europa nel caso di dovessero arrivare, noi non ce lo auguriamo, problemi più grossi, quindi cioè la Spagna, l'Irlanda, il Portogallo, non cito neanche l'Italia per scaramanzia. Però insomma mi sembra che se questo dovesse essere un tentativo, un numero zero, una prova finale, siamo ancora lontani, cioè la reazione è stata lenta. Certamente. Ci sono volute settimane, ma cos'è, un mese che parliamo della Grecia? No, su questo sono totalmente d'accordo con lei, la reazione è stata lenta e un'area... Impacciata forse anche? Non ho capito. Impacciata forse? Impacciata, un'area della potenza economica, ma anche politica e geopolitica come l'Europa, che è posta di fronte a un micro problema, si impantana per tre mesi. Questo è veramente un brutto segnale, e se tutto ciò potesse essere utilizzato per indurre l'Europa a mettere a punto rapidamente degli strumenti di intervento, sia con riferimento a ipotetiche crisi temporanee di bilancio di paesi membri, sia per interventi più consistenti attraverso un fondo che io ho chiamato Fondo Europeo di Sviluppo, per fare infrastrutture e tutto ciò che serve per davvero fluidificare il mercato interno, ebbene allora questa crisi greca sarebbe servita. Vorrei dire un'altra piccola osservazione: si continua a dire unifichiamo il mercato interno attraverso le liberalizzazioni, benissimo, ma non basta. Sarebbe come stato dire subito dopo la guerra: unifichiamo l'Italia non facendo l'autostrada del sole, ma liberalizzando il mercato delle automobili tra il sud Italia e il nord Italia. Ci vogliono pure le reti per farle viaggiare le automobili. Certo. È un esempio, se lei vuole, un po' banale, ma è inutile parlare di soluzioni miracolistiche con le liberalizzazioni, che pure sono necessarie, quando ancora il sistema nervoso del mercato interno non è adeguatamente definito, strutturato. Professore, in una battuta invece mi dice cosa ne pensa del fatto che del tentativo di bloccare l'attività speculativa dei fondi hedge, quelli che non hanno sede in Europa, chiedendo l'autorizzazione. Lì addirittura siamo in alto mare, la Gran Bretagna ha paura di perdere attrattività. Cioè, è possibile che la forza dell'Europa sia così bassa nei confronti della speculazione finanziaria, diciamo, guardi, di matrice non americana? Credo, non credo, e credo che quello che ha detto Tremonti sia oggettivamente importante, cioè che anche la protesta della Gran Bretagna è stata più tenue rispetto al passato. Personalmente io ho le mie tesi particolari su queste tematiche e credo che tutte le operazioni finanziarie di breve termine con una forte leva speculativa dovrebbero avere una tassazione diversa rispetto alle operazioni di medio-lungo termine senza leva speculativa o con una bassa leva debitoria, e questa tassazione dovrebbe andare ad alimentare un fondo europeo, il quale a sua volta dovrebbe servire per fare degli interventi di investimenti e iniziative del genere. Alla fine è una specie di Tobin Tax. Sì, sarebbe anche una soluzione possibile, però è vero che la Gran Bretagna, rispetto al no secco di un mese fa, sta dicendo ni. Vediamo se arriverà poi a un sì. Grazie Alberto Quadrocurzio in collegamento con noi. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Vi lascio alla nostra programmazione. Da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.